io sono catturato della parola detta dal professore Ardico, Rosmini Renaissance. E ecco, con questo passo ora alla presentazione del primo degli oratori della giornata, che è il professor Hans-Jürgen Verweyen dell'Università di Friburgo in Brisgovia, Albert Ludwig Universität, studioso noto di Blondel, Fichte e di Sant'Anselmo. Una competenza grandissima nel campo della teologia fondamentale, anche per l'insegnamento costante che egli ha praticato per diversi anni, e che si condensa in particolare nel suo libro più recente, che si intitola Gottes letztes Wort, l'ultima parola di Dio, frutto maturo del suo pensiero, in questo libro che prenderemo presto in considerazione e forse da parte nostra anche cercheremo di renderlo più noto nel mondo italiano. Professore, la parola a lei. Grazie molto. Il professore parla in tedesco. Ci sono le cuffie per la traduzione simultanea in segreteria, ognuno può provvedersele, vero? Il traduttore è il professor Renner, che noi già conosciamo, vero, per la sua precisione e prontezza. Forse un attimo per via delle cuffie, se è necessario un attimo di pausa. Grazie molto. Eccellenza, il Presidente, onorabili, signore e signori, mi dispiace molto che non parlo italiano. Non tutti i criti sono mendaces, non parlo italiano. Punti cruciali della teologia contemporanea per una mediazione filosofica dell'unicità salvifica di Gesù Cristo. Ich danke Ihnen sehr für die Einladung an diesen schönen Ort. Ringrazio molto per l'invito a questa bella località, che vogliate anche sopportarmi, anche se professo una lingua così nordica, ma ritengo che voi siate abbastanza vicini alle terre tedesche della vostra storia e molti di voi potranno anche capirmi nella lingua originale. I microfoni sono aggiusti? Le cuffie vanno bene? Grazie. L'invito ad una conferenza a questo congresso mi ha colto con una certa sorpresa, per non dire con un certo timore, perché finora sui miei viaggi teologico-filosofici avevo incontrato Rosmini solo, per così dire, di passaggio. La mia preoccupazione però si è posata, perché non dovevo tenere una vera e propria conferenza, ma solo una prolusione. Che vale a dire, come mi ha istruito un lessico del latino medievale, devo cercare di far sì che gli effettivi attori di questa pièce, prima ancora che si alzi il sipario, possano un pochettino scaldarsi. Anche nel ruolo di un allenatore devo certamente almeno cercare di capire a quale esercizio di respiro devo eccitare gli studiosi di Rosmini prima della recita. Mi tranquillizza sapere che gli unici esperti con cui io sono in particolare contatto si sono occupati a fianco di Rosmini anche con altri personaggi che conosco da più tempo. Antonio Stagliano lavora adesso intensivamente sotto la guida di Anselmo di Aosta. Mio altro collega e amico Karl-Heinz Wenke ha già trovato praticamente delle familiarità fra Rosmini e un altro grande cultore della Borgogna, Maurice Blondel. Per essere sicuro che nelle mie esercitazioni previe sulla nostra discussione di Rosmini non perda troppo rovereto di vista, mi riferirò a parte una piccola deviazione verso Firenze, soprattutto verso la Borgogna, per cercare con l'aiuto di Anselmo di Blondel di ricondurre l'attuale situazione teologica ai punti cruciali oppure al punto. Dabei möchte ich dem mir gestellten Thema entsprechend die Fragen nach der Verantwortung der Theologie vor der historischen Vernunft ausklammern und lediglich die philosophischen Aspekte dieser vom Christen geforderten Rechenschaft nach 1 Petrus 3,15 di questo rendiconto richiesto al cristiano secondo 1 Pietro 3,15. Potete sentirmi bene? In einem ersten Teil meiner Überlegungen Porteranno alla soluzione di questo problema fondamentale. Propongo perciò la seguente articolazione. Il primo punto circa lo stato e il flusso dell'attuale discussione filosofico-teologica. Secondo punto, un excursus su Giovanni Boccaccio e l'ethos postmoderno. In terzo luogo, criteri filosofici per la comprensione dell'unicità salvifica di Cristo quale salvatore delle molte immagini di Dio. Arrivo al primo punto, lo stato della discussione. Inizio con una tesi piuttosto dura. Glauben im theologischen Verständnis heißt nicht meinen, sondern credere, überzeugt sein. Ritenere, ma essere convinti. Überzeugen, convincere, si comprende meglio nelle lingue romanze che non nel tedesco. Convincere significa la vittoria più profonda di tutte le altre, che comprende anche la mia ragione autonoma. Da quello una volta per tutte di Cristo essere convinti significa sono certo che nulla di ciò che può incontrare ancora l'uomo potrà superare quella ultima definitiva verità. Questa certezza non è acquisita ancora con il fatto che io accetti quella verità in una semplice obbedienza di fede, che la tenga e la professi. Solo quando la mia ragione in piena autonomia ha compreso il concetto di una verità definitiva e di un ultimo senso per l'uomo, così che nulla possa più distruggere questo concetto, allora posso dire onestamente: sono arrivato fino al midollo della mia colonna vertebrale spirituale e sono stato vinto qui da Cristo. Allora, quando ciò che io credendo posso dire e ho sentito su questo Gesù Cristo corrisponde a ciò che io nella mia e ineludibile riflessione ho potuto mediare come quel concetto di una irrinunciabile verità e di un ultimo senso. Autonomia significa qui ciò che io ho ricevuto in dono tramite la fede rimane qualcosa di soltanto accettato e dunque di eteronomo. Ciò che ho solo accettato, ricevuto, è così anche se questa accettazione avviene in una obbedienza senza riserve e nell'intera forza dello Spirito Santo è avvenuto e avviene ancora. Dalle possibilità della ragione umana, in linea di principio, rimane ribaltabile dall'esterno come è per me una determinazione presa dall'esterno, che giunge dall'esterno. Rimane un quid id quo maius cogitari potest. Dal mio punto di vista rimarrebbe così aperta la porta al dubbio circa la definitività, almeno in linea fondamentale, e quindi non chiarito se Cristo in fondo non si possa definire come un penultimo guru. Ciò che i primi cristiani avevano chiamato parresia, cioè il coraggio dell'incontro ufficiale con tutti gli altri senza abbassarsi la visiera, non potrebbe essere inserito in questo caso. Ciò che qui ho cercato di descrivere in maniera piuttosto complicata, Anselmo d'Aosta la chiama la ricerca delle relazioni necessarie della fede. Si tratta di quel processo filosofico autonomo, della piena percezione dell'imprimersi di Dio della ragione umana, dopo che è stata purificata dal peccato questa immagine di Dio mediante la grazia della rivelazione, come dice il primo capitolo del Prologio. Questo costruire a posteriori, che è autonomo dal punto di vista filosofico e che di ogni ragione umana aperta alla parola di Dio, questa determinazione della griglia razionale per una rivelazione di Dio storica e convincente si estende, secondo Anselmo, anche ai misteri a stricte dicta come la Trinità e l'Incarnazione. Anche in riferimento a questi si deve necessariamente rivelare con la stringenza dei motivi cogenti di ragione che essi sono necessari per la salvezza di tutti gli uomini. Ho espresso la mia tesi nella maniera più plausibile possibile e credo anche che il mio riferimento ad Anselmo, alla sua concezione del rapporto tra fede e ragione, sia necessario e giustificato. Però sono consapevole che con una simile visione delle cose oggi potrei esibirmi in un circo per dinosauri. Qual è la colpa? Cerco di trovare, di preparare una risposta aprendo un ponte alla prima filosofia, tra la prima filosofia di Maurice Blondel e il presente. La posizione rappresentata da Blondel nell'Action del 1893 e nelle lettere del 1896 si distanza nelle sue linee fondamentali e decisive chiaramente da quella scolastica e non scolastica che si basa su Tommaso d'Aquino. L'analisi sistematica di Blondel dell'immagine di Dio nella sua fenomenologia dell'azione, una antropologia ontologica con implicazioni metafisiche. Essa è puramente fenomenologico trascendentale. L'unico giudizio d'esistenza che Blondel accenna sull'ultima pagina dell'Action supera nella sua stessa chiara affermazione il dominio della scienza umana e la competenza della filosofia. Antimodernismus und Integralismus haben es leider weitgehend verhindert, hanno in Blondel den großen Philosophen wahrzunehmen, der quel grande filosofo che gli sein frühes Werk hat zunächst eher subkutan weitergewirkt über Joseph Maréchal und die sogenannte Nouvelle Théologie, über die uns glücklicherweise Herr Fruchtscheller und Herr Conigliaro questo pomeriggio. Auf diesem Wege ist jedenfalls Cauran noch erst in den Ruf gekommen, der Hauptvertreter transzendentalen Denkens im Raum katholischer Theologie zu sein. Principale rappresentante del pensiero trascendentale nell'ambito della teologia cattolica. Si verifica però, a mio parere, in ciò un compromettente riorientamento di fronte allo stimolo di pensiero originario di Blondel. In primo luogo, Maréchal ha in una profonda analisi di giudizio unbedingten Seins in den Vollzügen auch der theoretischen Vernunft aufgewiesen. Un'affermazione che deve essere assoluta nelle attuazioni anche della ragione teoretica, e così di fatto, similmente a Fichte, an einem entscheidenden Punkt weitergetrieben. Spinto avanti la filologia trascendentale di Kant su un punto decisivo. Riferendosi a un vecchio sofisma della tradizione svariziano-scottista, tentò comunque ancora in una dimostrazione per l'esistenza di Dio di ricondurre assieme la filosofia trascendentale e la ontoteologia neoscolastica. In secondo luogo, i più noti rappresentanti della cosiddetta scuola di Maréchal fast ausschließlich über diesen transzendentalen Wiederbelebung Lebensversuch des Neotomismus, cercato di, wie er sich im Cahier 5 verdichtet, rezipiert, hanno recepito, tentativo di rianimazione trascendentale che si ha nel Cahier 5 oder der e la sua intensa occupazione col Kant, la filosofia successiva, ad esempio con Husserl o l'idealismo tedesco, come nel Cahier 4 stampato postumo, non si sono occupati di questo aspetto. La forma propria della metafisica che nasce da questo collegamento della tradizione parziale e trascendentale e scolastica non era resistente all'intemperie, non ha resistito a quel linguistic term che und schließlich über die Sprachphilosophie angelsächsischer Provenienz sich etwa ab Anfang der 60er Jahre abzuzeichnen begann, schließlich wurde sie von ihren eigenen Vertretern in aller Stille beigesetzt. Drittens, diese Beerdigung im engsten Bekanntenkreis lässt sich an der Entwicklung des Ranerschen Denkens besonders gut nachvollziehen. In der ersten Auflage von Hörer des Wortes 1941 wurde die transzendental-ontologische Anthropologie des Offenbarung hin angelegten Menschen von Ranoff deutlich als Entwurf einer ersten Philosophie, einer prima Philosophia. Seit der Einführung des übernatürlichen Existenzialismus, das Ranoff zwar schon lange bedacht hatte, aber erst 1950 in Abkehr generalmente solo a partire dal 1950, allontanandosi dalle correnti principali della Nouvelle Theologie, da Blondel, si può parlare in lui soltanto più di una teologia trascendentale, non però di una filosofia trascendentale in senso proprio. Der Umbruch, der hier stattfand, lässt sich bereits in einer Fußnote der von Johann Baptist Metz besorgten zweiten Auflage dingfest machen. Della seconda edizione curata da Johann Baptist Metz di Hörer des Wortes 1963, una riflessione trascendentale concepita in maniera strettamente di filosofia prima non è ammissibile perché la riflessione, citiamo, è sempre compromessa da una indisponibile e non coinvolgibile situazione storica, non adeguatamente coinvolgibile situazione storica. Questo dato e pure non riflettibile momento di una tale situazione viene connesso poi anche mediante l'esistenziale soprannaturale. Qui l'introduzione dell'esistenziale soprannaturale vale proprio come una scusante teologica a favore del circolo ermeneutico della ragione che nella sua base è già storicamente condizionata e dal foglio di via ogni tentativo di una fondazione ultima filosofica. Nella stessa linea di fuga si trova Rahner quanto più tardi den puren Pluralismus von Philosophien pone sempre più come partner dialogico della teologia non la filosofia perenne ma il puro pluralismo di filosofie o delle scienze umane di fronte all'insuperabile pluralismo del pensiero presente e del futuro. L'entusiasmo per la pretesa universale dell'ermeneutica nel senso di Gadamer come fine per la riflessione di teoria sociale in riferimento a Habermas può sostenere lo slancio giovanile dei teologi filosofeggianti che sfuggiti alle catture e pescate di una neoscolastica ordinata al Magistero già dopo il concilio si erano impegnati a cercare nuove armi contro la restaurazione dei prefatti. La situazione teologico-filosofica del presente ci impone a porci, di imporci due questioni critiche. In primo luogo, sullo sfondo della tesi introduttiva che ho schizzato, è possibile dar ragione dell'unicità salvifica di Gesù Cristo quando ogni agire della ragione si muove in maniera irrimediabile in un circolo ermeneutico di continua superabilità? In secondo luogo, di fronte all'effettivo pluralismo, come viene accettato con una ovvietà intangibile dall'ideologia basilare del nostro tempo, si può di fronte a questo pluralismo ancora parlare di un atteggiamento fondato ancora nella comprensione fondamentale dell'altro e dello straniero, la pretesa di universalità di un'ermeneutica che nella sua autocomprensione è rivolta alla maggiore apertura possibile di comunicazione, non si rivolge piuttosto al contrario, all'opposto di una comunicazione autentica, finché la questione di una ineludibile serie di criteri di validità per l'agire comunicativo e dunque di una Zielen der ersten Philosophie, prima filosofia, solange diese Philosophie ha come meta una fondazione ultima, finché questa filosofia venga ritenuta obsoleta, queste due questioni der Verantwortung eines ein für alle Mal und nach den Kriterien für giustificazione dell'una volta per tutte e di un'ermeneutica della comunicazione devono essere viste in una stretta connessione reciproca. Prima che cerchi di tentare di rispondere a questa problematica indicata, secondo la mia impostazione di teologia fondamentale, vorrei dedicarmi alla questione dell'ermeneutica mediante un excursus storico verso Firenze sul tema Giovanni Boccaccio e l'ethos postmoderno. La convinzione essenziale dell'ermeneutica si fonda sull'osservazione che l'uomo può trovare la propria identità soltanto mediante la partecipazione ad una storia mediata linguisticamente. Sulla storia degli effetti, sull'autorità della tradizione presente come storia degli effetti, Gadamer, ovvero come resit, quale superamento narrativo di un tempo alienante, ma cosa avviene se in base a una valutazione comune di una tradizione finora portante, questa perde il suo valore vincolante? I tutori istituzionali di questa tradizione vengono ritenuti non più credibili? Nel suo Decamerone Boccaccio ha dato una risposta affascinante a questa domanda. Quest'opera non rappresenta solo una fresca raccolta di storielle della buonanotte per maggiorenni, la poesia dopo la peste che viene espressa, come afferma Kurt Flasch a ragione, deve essere compresa come lo schizzo da prendersi seriamente di una etica filosofica. L'esperienza dalla quale Boccaccio scrive si riferisce alle radici dell'umanità. Nel 1348, nella sua città di Firenze, si aggirava la peste bubonica, una parte di quella crociata di distruzione che la morte nera teneva in tutta l'Europa nella seconda metà del XIV secolo. L'uomo tardo medievale incontrava quindi nella natura non più le vestigia dei, le ammirabili orme del creatore del mondo, bensì lo spettacolo più tremendo. Eppure la morte nera si incontrava dal punto di vista temporale con una seconda radicale distruzione della sicurezza umana. Il papato da alcuni secoli non era soltanto il mediatore autentico della rivelazione giudeo-cristiana, si comprendeva anche come l'amministratore legittimo dell'eredità antica che da sempre apparteneva alla Chiesa quale frutto del Logos Spermaticos, ovvero sia, per dirla in breve, tutta la verità di questo mondo sottostava in ultima istanza al giudizio del Papa. Questo giudizio, però, intorno alla metà del XIV secolo, veniva considerato come estremamente dubbio. Papa Clemente VI, con la sua acquista di Avignone e la grande ristrutturazione del palazzo papale, aveva annullato ogni speranza di un ritorno della Curia a Roma. Dopo che nella città stessa il tribuno del popolo di Rienzo era fallito nei suoi intenti, a Roma e nello Stato della Chiesa, come diceva uno storico tedesco, ritornò ben presto l'antico disordine. Espresso in termini poetici, Boccaccio, nella seconda novella del Decamerone, un ebreo di Parigi non può decidersi inizialmente sulle richieste esigenti del suo amico di diventare cristiano. La sua conversione avviene solo dopo una visita a Roma. Lì diviene testimone della totale correzione della Curia e ne deduce che Dio deve essere dalla parte del cristianesimo, altrimenti egli avrebbe già da lungo tempo distrutto i principi della Chiesa. Forse questa è una consolazione anche per la politica dei nostri tempi. non è un caso che circa lo stesso tempo Guglielmo d'Occam sviluppasse l'ipotesi di un Dio che nella sua universale assoluta onnipotenza potrebbe ingannare l'uomo fino nelle sue ultime percezioni della verità. Un indizio filosofico di ciò di quanto radicalmente cosmos e logos possano arrivare a essere confusi. Tre secoli più tardi, Descartes, il padre della modernità, nella sua seconda meditazione ritorna a questa ipotesi per assicurare una prova dell'esistenza di Dio che si basa sul fondamento di una autovietà apodittica, principi incontestabili di una nuova scienza. Boccaccio non ha bisogno di tre secoli per diventare padre della postmodernità. Egli avverte una scarsa predilezione per la prova dell'esistenza di Dio, ma nemmeno sotto l'occhio vigile dell'Inquisizione al gridare Dio è morto attraverso le strade di Firenze. Questo annuncio roboante lo lascia ai filosofi del XIX e ai teologi del XX secolo. Boccaccio si accontenta di tradurre in maniera dignitosa i resti mortali di Dio e di mummificare il corpo del Signore con tutta l'espressione di stima e di rispetto senza causare la diffusione del suo fettore di decomposizione. Egli allontana il Dio divenuto irrilevante e la sua presenza incarnatoria della Chiesa, continuando a farli respirare artificialmente. Si tratta di requisiti che per lo spettacolo della sua piccola commedia del mondo si richiama in qualche modo alla grande Divina Commedia. Mentre la modernità più tardi si occupa di strutturare una nuova costruzione dalla pura materia di razionalità universalmente valida, negando la tradizione e la storia, Boccaccio conserva un strano amore su ciò che è tradizionale, sulla sua tradizione. Nella sua nuova inscenatura teatrale di contenuti di senso tradizionali, non tende a fondare un nuovo canone di valori, egli piuttosto fa commedia di tutto ciò che era sacrosanto e presenta questa commedia come la propria forma di una vita riuscita. Questa interpretazione posso provarla soltanto in maniera lapidaria. Senza la prima novella, una specie di accurata ouverture della sua opera, il Decamerone potrebbe essere visto come una canzonatura delle disagi ecclesiali che non supera l'alveo di una poesia umanistica. Quella novella basilare e chiave, però, mi sembra essere la maggiore profanazione di Dio che sia stata formulata nell'Occidente cristiano. Essa conduce a una sfiducia radicale circa l'affidabilità di ogni discorso umano, e a ciò vale una magistrale composizione dei diversi livelli di narrazione e delle prospettive. Auf der Ebene des Erzählten a livello del narrato wird der Effekt einer Preisgabe kirchlichen Treibens an si das allgemeine Gelächter di una rinuncia durch das Aufeinanderprallen von zwei Perspektiven erreicht. E so produce un riso universale mediante lo scontro fra due prospettive. Legt im Angesicht des Nachtodes eine Lügenbeichte ab, die einen esprime la sua confessione menzognera, che rappresenta uno sfotto della teoria della prassi della fede cristiana. Il prete che ascolta questa confessione, un monaco molto santo, noto professore di teologia, prende tutto per oro colato e ciò lo porta ad una venerazione di questo Gaglioffo come un santo, una venerazione che supera ogni concorrenza in questo campo. La frivolezza distruttiva di questa confessione viene rafforzata da una terza prospettiva che si ha sullo sfondo del narrato. Il gaglionfo morente si trova nella casa di due altri malfattori che dietro un separé commentano questa confessione. E cito letteralmente, sarebbero quasi scoppiati da ridere, ma poi si dissero l'un l'altro, ma che razza di uomo è questo? Nulla ha potuto allontanarlo dalla sua cattiveria, né la sua età, né la malattia, né la paura della morte, che vedeva arrivarsi, né il timore di Dio di fronte al quale trono di giudice egli sa di trovarsi e di dover comparire adesso. Questa è poesia di fronte alla peste. Auf der Ebene des Erzählers, sul livello del narratore, infine, a ogni apparenza sembra che si offra il maggior conforto di grazia possibile. Colui che venera il santo può essere sicuro della buona disposizione divina, anche se nella scelta di questo mediatore divino si fosse sbagliato. Ma questa consolazione è sbagliata perché il narratore Panfilo afferma che l'occhio mortale non può entrare in alcun modo nel segreto del mistero dello spirito divino. Questo discorso su Dio diventa un discorso vuoto di quelli che praticano la panfilia in luogo della filosofia. L'immagine di Dio volontaristica di Wilhelm von Ockham si trova trasformata in maniera poetica in Boccaccio. Centrali sono le parole che derivano dal tema dilettare e dal verbo piacere. Dio non agisce meno in base al principio del piacere quanto l'uomo e ha però le carte migliori. Già nella Proemio si dice, poiché a lui piacque, a lui il quale è infinito e ha determinato tutto mediante leggi immutabili, è piaciuto a lui che tutte le cose terrene abbiano una fine e così anche col tempo diminuisce il mio amore. Boccaccio dice che nel suo spirito il piacere prima mi procurava grande pena, ora la mia anima ha perso ogni dolore e solo il dilettevole è rimasto. Così scrive il poeta. Anche per diletto delle donne un po' svantaggiate dalla fortuna. Sono sempre le donne che giocano ruoli primari nelle azioni secondarie. Si trova più un ethos della fuga dall'ambito dove si muore, nel giardino epicureo del godimento poetico per le frivolezze stimolanti. Poiché qui si tratta di una visione previa sull'ethos della postmodernità, ci conferma che si tratti qui di tale visione previa, lo conferma il teologo più noto dei nostri tempi dopo Giovanni Paolo II e il cardinale Ratzinger. Questo teologo scrive, Boccaccio evoca il caos dei baccanti contro l'angoscia della paura e sviluppa un caleidoscopio di erotismo contro l'erosione della disperazione, mentre la peste distrugge tutti gli ordinamenti della gerarchia di valori medievale. Boccaccio coglie questa sfida e ci dipinge l'innocenza dell'amore con una ovvietà e semplicità che più tardi non viene più vissuta né insegnata. Così scrive Eugen Drewermann nel suo libro Scenderò sulla barca del sole, un libro che viene sottotitolato Meditazioni dell'Antico Egitto sul tema della morte e della risurrezione in riferimento a Giovanni 20:21. Worin bestehen genau betrachtet die ma in cosa consistono, vedendoli più da vicino, i principi di quella ethos della panfilia. Per quanto lo vedo io, è stato primo Maurice Blondel a proporre un'acuta analisi di questo programma di riforma dell'unità della ragione e del piacere nella prima parte del suo L'Action. La situazione del suo tempo era almeno in un punto, cioè il crollo dell'autorità della tradizione occidentale cristiana, paragonabile al XIV secolo. La rivoluzione aveva provocato una triste fine dell'unità tra trono e altare in quella tradizione gallicana che si era presentata. Molto presto divenne però evidente che i beni culturali di formazione tradizionali potevano essere gettati via solo rinunciando a ogni identità sociale e nazionale. Ma come poteva questa tradizione culturale essere passata oltre senza ricadere in concetti, in condizioni pre-rivoluzionarie? La risposta dell'esseismo, dell'estetismo e del dilettantismo è questa: si trasmettano i contenuti di formazione tradizionale in modo tale così che siano spogliati della serietà delle convinzioni da prima con essi collegati, ovvero in un libero gioco di nuove scene che continuamente cambiano. La critica di Blondel a questo dilettantismo, nel senso in cui il termine viene impiegato da Boccaccio, avviene nell'ambito del rimando al fatto che l'uomo non può sottrarsi ad un'opzione, ovvero un no, sì o no. L'impostazione fondamentale del dilettantismo, però, consiste proprio nel non volersi legare a nulla. Ci si è trovati abbastanza presi per il naso da valori ritenuti assolutamente obbliganti dai tiranni assolutisti, come pure dalla Chiesa che li appoggiava, dai tirannicidi e infine dai restauratori della storia cristiana come Chateaubriand. Essere presi in giro senza accorgersi, questo era il tipico drammatico destino dei convinti, dei barbari. La nuova parola d'ordine suona invece: lasciarsi prendere in giro sapendo di essere imbrogliati, dire di sì all'illusione e gustare tutto come una farsa piacevole, senza lasciarsi spezzare un'altra volta il cuore. Ci si sente in una disponibile contemporaneità con tutte le culture e le epoche, ponendo un tarlo che rode al cuore tutte le cose. Con il medesimo rispetto e il medesimo disprezzo per il sì e per il no, si può convivere con tutte le situazioni e al tempo stesso lasciarsi inghiottire. L'ironia e la benevolenza sono il passepartout universale. L'ipotesi di lavoro della nullità di tutte le cose dà al dilettante la possibilità di godere del tutto delle rovine dell'essere. Questo atteggiamento si pone di traverso a determinati valori, finché non si realizza la possibilità di rendere tutte le convinzioni delle mere opinioni, non ci si può rallegrare di un'universale virtù della tolleranza. Di fronte alla pretesa di una rinuncia universale alla sistematicità, Blondel rimanda al fatto che il dilettantismo, ovvero l'esteticismo, è l'unico conseguente sistema di un panteismo. Il panteismo traduce Dio nelle sue espressioni della natura e della storia. Con ciò però non conserva né lo stato reale delle cose né Dio come sovrano indipendente rispetto alle sue espressioni. Solo il dilettantismo, quale panteismo pragmatico dell'io, sfugge a questo dilemma. Qui l'assoluto salva nella forma dell'individuo la propria totale intangibilità, in quanto persegue la relativizzazione di tutto l'essere, il senso e il valore. Questo ethos della panfilia che Boccaccio ha sviluppato e che Blondel ha analizzato era fino al privilegio di una minoranza privilegiata che si era ritirata in un'Arcadia almeno letteraria. Come è stato possibile che questo ethos oggi sia divenuto il sentimento di fondo dell'uomo occidentale? Il fattore forse primario si potrebbe vedere nel mutamento radicale delle situazioni economico-politiche. Il giardino aristocratico di Epicuro nella vicinanza di Firenze, il salon francese, simili fenomeni del secolo precedente, rimasero costretti in una struttura sociale dove, grazie a dei chiari, a delle chiare immagini di nemico, almeno esteriormente si è professata sempre la fedeltà ai valori tradizionali della Chiesa della Nazione. Oggi, dopo la caduta del socialismo reale, il sistema dell'economia di mercato ha avanzato la propria signoria universale e per la realizzazione di questa signoria si offre l'ethos della panfilia. Il passaggio da un ribaltamento di tutti i valori, secondo Nietzsche, ad una commutabilità di tutti i valori, quale strumento ideale. Solo in base al primato del semplice pensare e ritenere, quale ideologia non perspicua nel nostro tempo, può riuscire di ridurre quella autonomia nata in base all'illuminismo mediante una raffinata strategia psicologica orientando i bisogni su una libertà puramente formale che si consegna senza resistenza al management del consumismo, una libertà che per la relativizzazione principale di tutti i contenuti di senso avrà contorni sempre meno chiari per il proprio impegno e ritiene bello e buono Carlos Kagathos ciò che si presenta come nuovo e affascinante e che ha le migliori possibilità di affermarsi sul mercato. In questo meccanismo di signoria, l'ethos estetizzante dei rappresentanti della cultura riceve una determinante funzione di stabilizzazione. Se nel gioco di interessanti interpretazioni i contenuti culturali vengono smontati come per gioco, un po' di gradini più in basso si possono con facilità, ad esempio, diffondere tra il popolo programmi TV in un pluralismo incontrollabile. Vengo al punto terzo, criteri filosofici per comprendere l'unicità salvifica di Gesù Cristo quale salvatore delle molte immagini di Dio. La sua unicità consiste nel fatto che egli è il salvatore delle molte immagini di Dio. Il mio lungo escurso mi è sembrato utile per rendere comprensibile la quasi imperscrutabile discussione teologico-filosofica del nostro tempo nella sua problematica centrale, un'ermeneutica che non si può richiamare più all'autorità universalmente riconosciuta di testi classici, si è trasformata, è passata in quella trattazione postmoderna di testi dove l'interprete diventa l'effettivo autore. In luogo della serietà affermata che oggi si ritiene, dopo la fine della modernità, di poter offrire di fronte all'altro e allo straniero, si pone quel gioco ritenuto con panfilia con le affermazioni dell'altro e dello straniero con i suoi testi, ritenendo tutto ugualmente valido, si rischia di diventare indifferenti er hat sich ja die Front all'altro di porsi a fianco all'altro con indifferenza. La domanda posta all'inizio sulle condizioni di possibilità per la comprensione di un'ultima parola di Dio ultimamente valida scivola così in un nuovo orizzonte. Di fronte alla preminenza del puro ritenere, meinen, è ancora possibile a ritenere le affermazioni di un altro, di uno straniero, espressione di una convinzione che mi tocca radicalmente, mi stimola radicalmente, non si dovrebbe forse qui anzitutto valutare la possibilità che io stesso giunga a una convinzione razionalmente responsabile che non sia dall'inizio predestinato ad essere una sola, una semplice opinione, l'attuale commiato dalla modernità mi sembra non meno ambivalente di questa realtà. Cercherò di mostrarlo mediante un riferimento a Descartes e poi schizzando la mia posizione. Due punti sono stati programmati per il destino della modernità in Descartes. Il porsi di fronte di Rex Cogitans, Rex Extensa, questo brusco di fronte porta con sé l'incomprensione di autonomia come sostanza dell'io in sé permanente e la riduzione di tutto il resto ad un materiale a disposizione del Dio. Una prova dell'esistenza di Dio che Descartes attua per assicurare il proprio sapere, ovvero l'esatto calcolo di quantità. Qui fonda la ragione strumentale la sua preminenza riferendosi all'assoluto stesso. Dall'altra parte, due punti positivi, la rinuncia ai quali porta con sé la distruzione della ragione. In primo luogo, l'alternativa di Descartes a Boccaccio di fronte alla possibilità di uno spirito menzognero onnipotente, Boccaccio ha preferito, almeno in un'autonomia narrativa, per così dire nel nome della rosa, di prendere in mano i fili della Divina Commedia, se già l'esistenza dell'uomo come marionetta del grande teatro, direttore di teatro, non può essere evitata. Descartes invece raggiunge qui il punto archimedico dell'autonomia umana e gli dice: esiste un onnipotente che io non conosco, un imbroglione che mi inganna continuamente. Ma se mi inganna, è indubitabile che io sono. Egli mi inganna finché vuole, non riuscirà però mai a far sì che io non sia finché io posso pensare di essere qualcosa. Questa autonomia, in una riflessione conseguente, non può essere vista come una sostanza, come una res cogitans, in concorrenza con una res extensa, che poi si domina in senso reale oppure soltanto fittizio. Ma questa autonomia porta con sé la dignità della canna pensante secondo Pascal. Di fronte a ciò, i rappresentanti dell'ermeneutica, dell'analisi del linguaggio e della teoria del discorso restano sullo sfondo quando credono di avere superato il solipsismo metodico della filologia trascendentale con il loro linguistic term, perché l'argomento di Descartes non si può applicare solo al spirito menzognero onnipotente, bensì anche al destino dell'essere, ovvero al gioco del linguaggio, come semplice epifenomeno che il soggetto postmoderno crede di potersi riprendere. Quando io non posso sfuggire all'ovvietà di una lingua che è data previamente e rifletto energicamente, riconosco che almeno questa conoscenza non è in virtù e grazia al linguaggio. Secondo punto, la scoperta dell'io che riflette fondamentalmente der unhintergehbaren Absolutheit der di essere nel dubbio wurde in der Marechal-Schule plasmato da un'idea di assolutezza. Questo convincimento ritorsivo della dimensione assoluta, ineludibile della regione, è stata proseguita nella scuola di Marechal da R. Laud come riferimento all'essere assoluto. Qui vorrei mettere in guardia da due vicoli ciechi. Da una parte la ricaduta nell'idea dell'assoluto, credendo di poter ritornare ad una prova sufficiente dell'esistenza di Dio. I rappresentanti della scuola di Marechal credono di poter aggirare l'antinomia kantiana con l'aiuto del principio finale. In ambedue i falli, in ambedue i casi, il passo verso la metafisica avviene mediante una petizio principi. In secondo luogo, l'aggancio tradizionale alla metafisica nel pensiero trascendentale seduce l'agnostico a allontanare questa plasmazione dell'assoluto e eliminarla dalla riflessione. Con ciò diventa incapace di una critica veramente radicale dell'ideologia. Ciò che resta è un alternativo polarizzarsi, spingersi in alto, il pluralismo e il fondamentalismo, ambedue ugualmente impotenti, in riferimento ad una responsabilità filosofica nelle sue premesse poste con il credere o ritenere. Ambedue questi vicoli ciechi, il passo verso la metafisica, l'agnosticismo che non riflette più sull'assoluto, hanno il medesimo esito. Come tutti gli esseri vitali, l'uomo è per natura un egoista. Ammettere questo è difficile, almeno in riferimento a se stessi, perché l'uomo, a differenza degli altri esseri viventi, ha la sensazione di dover diventare diverso. Il miglior mezzo per superare questa contraddizione con se stesso è di comprendersi come semplice momento di un tutto più grande, di un agire divino, di una volontà di potenza a tutto soggiacente, oppure al destino dell'essere e al gioco linguistico. Allora non si ha più bisogno di attribuire a se stessi le proiezioni della propria tensione verso la totalità delle sue diverse variazioni. A partire da qui si spiega anche la strana circostanza che gli spiriti più diversi, da Nietzsche fino a Giovanni Paolo II, siano uniti nel loro rifiuto dell'autoriflessione cartesiana. Fichte dice che la maggior parte degli uomini potrebbero essere più facilmente portati a ritenersi un pezzo di lava della luna che non un io. Si può mostrare il senso trascendentale, la struttura elementare di una ragione umana in sé contraddittoria, la situazione dell'assurdo nel senso di Albert Camus, oppure Sisifo e la pietra. Lässt sich dieser Widerspruch in der Vernunft aufheben? Se questa contraddizione nella ragione può essere eliminata senza ricondurla all'assoluto, aprendo così la strada a Nietzsche, il tardo Fichte ha tentato di fare ciò. Gesetzt, das Unbedingte sei wirklich, ponendo che l'assoluto sia realmente, esiste realmente, si potrebbe allora pensare la ragione senza contraddizioni? Questa domanda deve ritenerla ragionevole anche l'agnostico, poiché non può rinunciare alla libertà in senso stretto. L'autonomia è possibile solo se zu überwinden vermag. auch der Agnostiker, il Dasein aber unvermeidlich può superare almeno il concetto la contraddittorietà esistente nella sua vita. Annahme sicher glaubt, dass die einzige Entschuldigung anche für Gott darin besteht, nicht zu existieren. Pone però l'esistenza, presuppone l'esistenza di un inevitabile assoluto, Stendhal, anche se ritiene che l'unica scusante per Dio consista nel non esistere. La risposta del tardo Fichte, se al di fuori dell'essere assoluto non esiste nulla se non la sua immagine, allora la ragione è senza contraddizioni. Quando un ich lascia dissolvere la propria autonomia nel fatto di non lasciare esistere altro che l'assoluto, allora la sua unità non appare come non contingente nonostante le differenze. Nella terminologia del Vangelo di Giovanni, il padre e il figlio vengono conosciuti nella loro unità quando l'esistenza del figlio si dissolve nella doxa tu Theou, doxa Theou, nel divenire visibile della gloria di Dio. Ma cosa si guadagna con ciò per la permanente contraddizione di in questo mondo concreto? La migliore speculazione di immagine, in accordo con la mistica platonica, non aiuta Sisifo a fare nessun passo. Nella relazione fra l'io e il non io, se ogni io si decidesse a divenire immagine e specchio per l'altro, per lo straniero, e se ogni materia venisse compresa come motivo di possibilità di questo libero gioco di comunicazione, allora la contraddizione verrebbe riconosciuta anche nel Dasein mondano concreto come superabile almeno in linea di principio. Karl Kraus dice: se ho il tuo orecchio trovo la mia parola. Per arrivare a se stesso l'uomo ha bisogno che altri gli offrano, gli preparino un'immagine nel mezzo della loro esistenza, gli preparino un quadro che non trasformi l'altro, lo straniero, ma lo conduca, lo aiuti alla espressione della propria forza. A partire da questa riflessione trascendentale si possono sviluppare criteri per un'autentica comunicazione infraumana. L'ermeneutica riceve su questa base la propria, il proprio fondamento come un processo non concludibile, infinito, di un reciproco riconoscimento senza riserve per un dominio rimanente di un'autarchia individuale falsamente intesa. La questione di Dio entrerebbe in seguito su questa strada, ma in una maniera molto più forte. Secondo Emmanuel Levinas, che cosa rende sensato divenire ostaggio dell'altro nonostante la tua mortalità, se non una speranza che nasce dalla pretesa etica, un postulato della ragione pura pratica, nel senso di Kant? Le speculazioni metafisiche sull'essere di Dio rimangono dubbie per loro aggrapparsi alla fissità. L'immagine di Dio posso vederla quando nel riconoscimento reciproco dell'uomo e gli uomini questo difficile gioco del puzzle porta alla composizione di diverse immagini di Dio che sono sparpagliate nel mondo, come si direbbe al posto del detto sartiano: l'inferno sono gli altri e il cielo sono gli altri. Forse non ho bisogno di dire che con queste mie riflessioni si apre la strada per una mediazione filosofica dell'universalità salvifica di Gesù Cristo. Ciò che qui in una riflessione trascendentale è stato tracciato come concetto di possibilità di una ragione mancante di contraddizione diventerà un concetto utilizzabile dell'agire umano, dove questa immagine di azione viene realmente incontrata, dove un uomo arriva ad essere piena trasparenza dell'essere di Dio, ans Licht zu kommen erlaubt. e ciò avviene soltanto quando riconosce anche al limite estremo dell'umanità l'immagine di Dio e le fa venire alla luce. Per quanto ciò avvenga in maniera, per quanto una prima filosofia debba essere metodicamente autonoma, come ancilla ermeneutiche, deve fornire un punto d'appoggio alla comprensione storica. Il coraggio per questa riflessione sul io penso, sulle sue condizioni di possibilità trascendentali, mi giunge soltanto mediante l'agire di altri che mi liberano me stesso nella misura di questa liberazione in cui questa liberazione avviene nella storia. Per dirla con le parole di Anselmo d'Aosta, ti confesso Signore e ti dico grazie che tu in questo in me abbia creato una tua immagine affinché io, ricordandomi di te, pensando a te, ami te. Wenn du es nicht erneuerst, ma per quanto i miei peccati distruggano questa immagine, ti ringrazio che tu la possa sempre di nuovo rinnovare e rigenerare. Sentitemi di dire che trovo veramente un ideale di prolusione questa inquadratura che ci è stata presentata, non solo per la concentrazione delle idee, e anche per la formulazione così adeguata e così sensibile. È proprio quello che io, non da filosofo ma da storico, sento continuamente il bisogno anche nell'abordare pensiero e il nome stesso di un pensatore come Rosmini. Dobbiamo assolutamente cercare di capirlo dentro lo sviluppo della riflessione in cui egli è sbocciato e in cui egli incide. Sono molto riconoscente di questo. E stavo pensando a quella che è stata la situazione dei nostri contemporanei, dei contemporanei di Rosmini. Il beato Giovanni Nepomuceno de Ciderer, vero, è stato dal 1807 al 1810 professore di morale e di pastorale nel seminario nel periodo bavarese illuminista. Che pensieri si sarà fatto nella sua modestia, chiamiamolo pure, cosa avrà detto se potessimo avere le sue lezioni? Certamente si è trovato molto alle prese con questa mancanza di base ormai per ragionare in modo solido, vero, a proposito di Dio, e la necessità di cercare anche a livello spicciolo di presentare, vero, formule, sistemi, eccetera, no? È veramente una iattura che non si siano compresi questi due uomini nel momento in cui quest'ora di contatto, anche per risolvere le difficoltà più grandi del momento, si presentavano. Ma ecco, se io presento, se io penso che forse anche la nostra pesantezza trentina qualche cosa può avere influito, penso ad una parola scandalosa di un famoso poeta trentino tanto citato, quando dice: salvate, oimè, le membra dal tarlo del pensiero. Ecco, qui abbiamo un uomo, anche nostro, vero, che stando dentro, anzi immerso e radicato nel pensiero cristiano e nella fede cristiana, certamente non cioè ci redime da questo scandalo e ci aiuta ancora oggi a venirne fuori nella situazione attuale che tutti abbiamo sentito, quanto adesso diventa drammatica proprio questa riflessione, quanto diventa necessaria questa ricerca delle rationes necessarie, ho sentito da Anselmo di Aosta. Grazie infinite da parte mia, e mi pare che l'uditorio ha gustato assai questa proposta.